La stagione di Raum apre il 1º ottobre, un sabato, tardo pomeriggio, con un'azione pensata ad hoc da Marcello Maloberti, artista visivo da considerare uno dei pionieri delle performing arts in Italia, che lavora su delle sculture viventi. In questo caso il suo lavoro Metal Panic sarà una breve azione in cui sono coinvolti dei forzuti di professione e diciamo, anche amateur, che solleveranno una barra di ferro lunga 24 metri. Se vogliamo, simbolicamente, anche un po' il gesto rappresenta lo sforzo nel proseguire la ricerca che una realtà come la nostra sta facendo, ma anche l'Alena. Subito dopo, e invece all'interno di Raum, che comunque insomma, ospiterà una dimensione di festa, verrà presentato il suo blog Marmellate, che è una specie di tesoretto di immagini da cui poi Marcello Maloberti attinge per i suoi lavori. Sono delle scritte, dei collage, delle cose anche un po' stupide, ma volutamente stupide. Marcello dice che gli piace la semplicità che rasenta il banale. Sono degli agglomerati di immagini, alcune volte molto fitti, dicevo, dei collage. In questo caso il blog diventa un breve film di 25 minuti e sarà musica da Daniela Cattivelli, una musicista che lavora a Bologna e che riprende appunto questo metallico, questo suono metallico, questo orrore casalingo che viene creato in strada e altri ronzii, suoni spaziali, insomma, anche lei ha deciso di esagerare su questo fracasso visivo. Quindi ci sembra anche un bell'incontro fra questi due artisti. L'immaginario di Marcello Maloberti è semplice e complesso, direi molto italiano. Assolutamente facile, avvicinabile da parte di chiunque, non c'è alcun bisogno di avere degli strumenti speciali, anzi, è molto divertente.